Security X, hola. La voce ma è aspetta un attimo, va, aspetta che c'è un altro telefono. Oi Natalau, sta armeggiando, aspetta un po'. Ola, quindi distanza vabbè, attaccato dei tre quarti, 1, 2, 3, poi facciamo un palmo dal mic, 1, 2, 3, prova e vedo che va. Ok, proviamo se lo poggio sulla gamba, 1, 2, 3, vedo che va. Ola, se parlo forte, 1, 2, 3, prova e già andrà bene. Natalici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ola la cipolla. E beh, cacchio c'ha, prova, non mi sento. Prova, non mi sento, boh. Prova, chi c'è qua? Natalino, hai rimediato, stai operando, rifondi almeno. Insomma, parto un paio di mila euro. No, non per la roba, per toccare i testicoli. Voglio mandare che c'è uno più. Sì, però. Oh, ma sai che già è un bel po', a parte quello che va bene, per me mi sta bene. Natalino, sei all'ascolto? Hai risolto? Hola, attenzione canale 10. Hola. Chi è là? Ciao già, è Marco. Stanno tentando di riparare il baracchino di Natalino. Stanno facendo prove. Boh, non si sa. O esce basso di radio o innesca. Ma inneschi tutti i tipi, forte, cosa, addirittura fischietto tipo uccellino, faceva così, una cosa assurda. È impazzito. No, è incredibile, guarda, è incredibile, cioè è di una semplicità estrema con l'apparato. Cioè lui non ha fatto altro che togliere l'MB più 4, da lì provarlo al nuovo, poi l'ha rimesso al vecchio, boh, partito al 3009, non si capisce perché. Ma non l'avete aperto? No, non ci sono io, non sono io da Natalino, non so chi sia, boh, potrebbe essere Franco, chi lo sa. Ecco. Non lo so, vabbè. No, non pensavo che l'avessi tu, che stessi tentando tu di metterla a posto. No già, poi io non essendo tecnico, dubito che sapri farlo. Perché abbasso. Ecco. Ti volevo dire già, ma tu hai chiamato in banda laterale solventi? Sì. Sentite, attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza. Sembravi tu. Ero io. Eia, ascolta già, come la trovi questa modulazione con l'eco? Perché qua si regola internamente, però non so se sia regolato al minimo. Vedi come va, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, intanto spegni quell'orologio che sta facendo il suono macabro. No, va benissimo, l'eco non è forte, appena appena proprio un pelino, e ti dà questa amplificazione bella. Eia, quindi riepilogando, CRT 7009, ZGM B più 5, effetto eco, Roger B per i quelli figaciosi, e una cinquantina di watt. Ciao, va bene, sì Marco, va bene. Eia, tutto lì, vabbè già, ti volevo dire più che altro questa cosa, stanno cercando di pararlo perché anche io non saprei capacitarmi, a meno che tu mettendo la spina e togliendola non si sia mosso tutto il blocco, no, la presa microfonica abbia toccato qualcosa e abbia magari alterato qualche resistenza, che ne so, qualche piccola cosa che ha danneggiato qualche componente, boh, poi ce lo diranno loro. Ciappa, e se devi fare DX già, dai, riprendi a fare DX, io tanto qua stavo lavando roba, fra poco mi faccio pure un caffè e che altro, dai. No Marco, io stavo facendo DX perché non c'era nessuno e ho fatto una spazzolata, ma non me ne frega nulla di fare DX. Eia, io non mi posso ascoltare perché fischia. Basta che... lo vedi? Vabbè. Loro conversano sul 20. Eia, no, dico loro perché non è la voce di Natalino che sta operando, è un'altra voce, potrebbe essere Franco, ma potrebbe anche non essere Franco, non so, non ho chiesto, sono impegnato. No, non era Franco, ho capito chi era, è l'amico suo, quello che abita di fronte, hai capito? Adrian. Caragava, mi sembra tutto un c***o. Oh, il modulatore lì che gli è partito, boh. No, però vedi, ogni tanto esce di radio ma esce basso, c'è una modulazione non normale, tipo radio 1, radio 2, però come alza appena appena, è come se alzassero qualcosa e allora inizia a fischiare, prima cinguettio, poi un fischio fortissimo come ieri, capito già? Strano perché, cioè sono così semplici quegli apparati, non è che posso capire di questi che sembrano cellulari, che sono tutti miniaturizzati, c'è il processore ogni tanto parte di brocca, no? Quei chip che hanno di controllo lì. Non mi capacito manco io cosa possa essere, ho pensato anche alle stazionarie, mi ha detto che non era, ho pensato anche che fosse stazionario, perché a volte le stazionarie ti fanno fischiare, ti fanno fare queste cose, specie quando è amplificato. Ciao Gianni. Luca, tu sei? Via. Bello. Ti trovo bene, Mastro Geppè. Via, via. C'è tamponi. Ma te l'ho dimesso oggi? Via. Che strano, di domenica, cazzo. Fa fate, bastardo? Sto aspettando male, sì, ma 9 posti urgenti servivano. E vabbè, mi hanno mandato via il giorno dopo che mi hanno operato, che cosa ci puoi fare? Mi sono dovuto fare la fisioterapia io, meno male che già sapevo come fare. Adesso ho passato a guarire, ecco qua sono già a posto, bello dritto, ho levato tutti e tutta la mondezza che c'era dentro, e di poliposi intendo. Scappa, ma anche se te la sale ti aveva drizzato. Sì, sì, sì. E quindi adesso cazzo sei un figurino. Cazzo, figurino, ma figurino. Mi sa di un bel suolto del chili, chili. L'ho mangiato, io non l'ho mangiato, però. Dovevi mattina andare alle 9, a levare le tampone per fare la cura. E il cane chi lo teneva questi giorni? La mia amica ce l'ha. Ah, KK, infatti ci ho pensato, se ne ha bisogno glielo prendo io. L'ho disperato per il cane, però già ce l'ha questa mia amica, Michela. Io sono a pezzi, so. Mi hanno intubato, mi hanno cacciato la scatola a gola, mi fa male la gola. Anche a me mi hanno fatto la stessa cosa, mi bruciava la gola come mi hanno intubato. Loro non sanno intubare perché io ho intubato e ho intubato uno che era in coma etilico, stava crepando, c'era l'inta viola, l'ho intubato io e quando mi hanno portato al pronto soccorso mi hanno chiesto chi è che ha intubato quest'uomo. E io mi sono cagato sotto, ho detto io perché è stato bravissimo, non gli ha fatto un graffio. E c'ho ancora il sangue, come c'ho questi tamponi, adesso c'ho il naso che sembra una borsa di coglioni, scusate il tempo. Ehi, ti volevo fare la battuta, però forse non è il caso, ti volevo chiamare Mastro Geppetto. Però una volta che levi i tamponi già torna normale, sempre grande rimane, però è a posto, dritto. Mi ha fatto la... aspetta, la... è uscito nel fuoco, la... adesso mi ricordo il nome, butto. Adesso ci devi tornare. Rinoplastica. Ma ci devi tornare per la medicazione. No, devo andare per fare tamponi, poi devo prendere un po' di medicina, non so quanto spendo, boh. Mi sa che quello che c'è la roba la spesa un botto, ma chi se ne frega. Spendo quello che c'è da spendere, mi interessa, l'altro è importante. Vabbè, a me invece mi stanno bruciando gli occhi questi giorni, mi bruciano gli occhi e mi cola il naso. E sto mettendo questo collirio, però no, mi fa bene nel momento, poi a volte mi ritorna. Io penso che sia un'allergia a qualche cosa. Ciao Marco. Eia, polline, può essere allergia alla polline, Gianni? Davvero? Perché mi viene anche la notte, praticamente, no, io ho pensato prima che fossero gli occhi stanchi, la secchezza agli occhi, magari leggendo su internet e facendo, invece no, non è quello, perché anche la notte a volte mi viene questo bruciore forte, mi devo alzare a mettermi con lì. Allora, c'è un amico che... in questo periodo sta soffrendo di bruciore dagli occhi. Come torna a casa, notte, e come torna a casa, gli viene questo bruciore agli occhi, lo stesso un po' lacrimazione. E loro hanno messo nella casa nuova un bel di piante. Ho detto, ma non è che c'è qualche pianta che ti provoca quello? E poi inoltre in casa usano, sai, quelli che profumano la casa, praticamente è una cosa che fa un leggero fumo, è un fumo che profuma la casa, una specie di, come si dice, erogatore, ma già hai capito? Ce li ho anche io, ma dice che sono cancerogeni quelli lì. Me li ha regalati mia figlia a Natale, me li ha portati. Sono dei deodoranti, praticamente tu li accendi, sono degli incensi. Lei non so cosa sia quello, io mi ha detto fa un po' questo fumo profumato, però ho detto magari è quello, magari qualche pianta, perché c'hanno una marea di piante, e glielo fa solo quando entra in casa, come esce gli passa, e ha detto allora andate a esclusione. Te bello, bisogna avere un po' di pazienza. A me quando mi avevano operato cose più importanti, mi avevano messo mezzo metro di garza nel naso, guarda, una cosa impressionante quando le hanno tolte. E in più c'avevo queste piastrine di plastica, queste piastrine di plastica che hanno un nome particolare, che mi arrivavano fino al cervello, gira gira, lunghe roba di 10 centimetri, guarda, una cosa insopportabile. Vabbè, Lu, sei stato appena operato, devi avere un pochino di pazienza e stare riguardato, prendere le eventuali terapie, medicine, poi già passa, dai, poi già ti troverai meglio. Quindi erano polipi, ho capito, non erano, non era solo setto di viatto, no? Sì, polipi turbinati, è stato del viatto. Poi quando si sgonfia tutto starai meglio, respiri meglio e anche parli meglio, capito? Meno sale la voce, capo. Va bene. Gianni, riprendi. Sì, vabbè, dai, fatto fatto, non ci pensi più. Quanto è 2 giorni che ti hanno operato adesso? Sì. Quindi tu sei stato mandato via meglio di me, io il giorno dopo mi sarei cuttura e tu devi vedere come stavo, io ero in una stanza da solo, quelli che erano insieme si erano presi tutti il coronavirus, avevo detto vada via subito prima che se lo prenda anche lì, tutti correndo, disinfettando gli infermieri, pulendo tutto quanto, un casino, e mi hanno buttato fuori proprio così, di brutto, mi hanno detto faccio una cosa, è in pigiama, si mette il giubbotto sopra, tanto chi la vede vengono a prenderla, chi la vede, e così ho fatto, non mi sono manco cambiato perché avevo paura. Io ho fatto 3 tamponi, 2 o 3 negativi. Ma adesso un po' di meno, lui, il periodo che c'ero io, grazie, era proprio il periodo gonfio. Adesso se ne sentono pochi col coronavirus. Io lo so. Adesso devo prendere l'antibiotico. Io la quarta non l'ho fatta, non li voto. Con tutto quello che ho sentito mi sono fatta addosso. Io sono tutto a dolori, Milo. Da quando io ho fatto i vaccini non avevo mai avuto dolori così. Tutto il corpo ha dolori. Io ho fatto la quarta anche. Cazzarola. Tanto. Guarda come vada. Vado, tanto non si può fare. Diciamo che questo... Questo intervento mi ha buttato un po' giù. Non dico il primo giorno, sì, il primo giorno l'ho sorbito per via dell'anestesia. Ma ieri, cavolo, ieri ero il freddo. Mi stavo cagando addosso dal freddo ieri. Non è che ero mai che corte, ma c'era caldo, mi stavo cagando dal freddo, mi sono messo a letto. Però questo freddo era dovuto per quanto riguarda il dolore nel naso, capito? Una volta che mi sono coricato, mi sono coperto, mi ha fatto tutto l'infermiere, mi ha attaccato la flebo, quasi dolorifico, e poi mi sono fatto dare una pastiglia per dormire e ho dormito un po', alle 5 mi sono svegliato, mi sono passati alle 6 per misurarmi la temperatura, con la pressione. Poi ho fatto colazione, niente, è venuto il primario e mi ha detto se un po' di lì oggi vado a casa perché facciamo bisogno dove venti, capito già? Capo, vabbè, ma di domenica solitamente non li mettono mai, strano, forse c'erano delle urgenze, vabbè, Lu, interessante, già stai meglio a casa, dai, futti dimmi, ma te arrivi con te adesso? No, la stavo portando. Ho capito. Chissà Guralida come ti vedo. La devo portare a lavare, se vediamo. Devo trovare. Adesso se mi lascia la macchina per Pio di nuovo. Adesso la faccio una passeggiata, me la porto lì via. Faccio il distributore quello piccolino, via via. Scendendo da via ne va meglio, so che via è quella. C'è una ragazza che lava i cani, la devo portare così, la faccio bella, la tavola profumata, tanto mi sa che prendere 30 euro, circa 30 euro, cioè, non mi ha fatto un cazzo di soldi, facevo finta che sto lì, sto sparendo per il naso. Però sento ci vado per fare questo lavoro qua, ci 6.000 euro. Hai speso? No, certo, se lo vuoi fare subito, 6.000 euro. Scherza, no. Lu, c'è anche vicino a casa, Vittorio, il trattore. No, non la porto da Barbara io, ma me la fa bella, bella, come la voglio io, te me la profumata, brava Barbara. No, sono già, portavo anche a Luna lì, però non cambio già. Prima la portavo da Monica, ma da Monica non la porto più. La porto da Barbara, Barbara Cadelano, bravissima. Ah, io lo lavo a casa il cane, lo metto nella vasca, lui sta fermo fermo, gli faccio la doccia bene, lo sappona, lo sappone per cani, lo sciampone per cani, poi ti devi riparare quando poi lo prendo con un asciugamano grande grande, lo asciugo, come lo metto in terra si cuzzureggia e fa un casino nero, vabbè tanto è già in conto quello, in conto che faccia un po' di casino, poi pulisco il bagno e faccio il gioco, pulisco la vasca, la disinfetto, è tutto, ho fatto io. E poi la devo anche tozzare già. La faccio fare da loro, già me ne frega. Anche loro devono lavorare. Vabbè, vabbè. No, io vabbè, non ho il problema della tosatura perché mi c'è il pelo corto, quindi non ha problemi per quello. Avanti, ma. Io mi stavo ascoltando, mi stavo un po' bloccando. Tanto la lavatrice ancora ne ha da lavare, vabbè. Fra poco mi faccio il caffè, fra un quarto d'ora. Insomma, la serata è fatta, dai. Per carità, le domeniche. Per carità, guarda. Io me l'ho fatto ieri, sbucato, mi ho steso tutta la roba, sarà già asciutta, ma non voglio ritirarla. La lascio sino a domani, poi la ritiro. Non so perché già, perché il cielo si è come annuvolato. Magari succede così, magari non la ritiri, fa quella pioggerellina, magari sporca e te la fa di terra, di sabbia. No, l'ho stesa nello stendino all'interno del terrazzo, Marco, non c'è problema, c'è la terra abbassata e nello stendino, capito? Quindi non c'è nessun problema. Come quando lavi la macchina all'autolavaggio, no? Capito? Poi mezz'ora dopo, un'ora dopo, la pioggerellina sporca peggio di prima. Lo so, è successo anche a me. Il giorno dopo mi è successo che ha piovuto. E vabbè, se no non la lavi mai, come fai a saperlo che fa questa pioggia sporca? L'estate mi succede anche. Lucrezia. Ehi, sono relax già. Come stai respirando? Col naso, no? Se c'è tampone, come faccio a respirare con il naso? Esatto, che c'è tampone. Vabbè. Con la bocca puoi respirare lo stesso. Certo. Capo. Avanti. Avanti, ma. Eia, vediamo se c'è Natale all'ascolto. Natale è risolto. Sarebbe entrato. Deve essere nero. C'è il colmo mio. Ha preso una radio, un barchino nuovo e gli si sciavide già l'altro. Ho fatti la prova dell'occhio, questo sembra proprio occhio mi fattura. Non lo dico a me. Ma poi il 3009, che mi sembra di una semplicità estrema quell'apparato. Non capisco cosa cacchio può essere successo, vabbè, poi ce lo farà sapere. Tanto Adriano, a quanto ho capito, è preparato, no? Ne sa di quella roba lì. Beh, c'è tutta la strumentazione, Adriano li aggiusta. Penso che sia lui, non è che non mi vuole sbagliare, ma mi sembra tu lui. Sì, ma domenica pomeriggio secondo me c'era lui lì vicino disponibile, perché qua già al baracchino non c'era un'anima, chi poteva uscire è andato al mare a mostrare chi a pecchiare, però era ventosa oggi, occhio, era un bel ventosa. No, oggi non era bella la giornata, era migliore ieri. Ieri sì che è proprio attizzato andare al mare. Ieri e l'altro ieri, proprio calda, calda, e non c'era nemmeno vento, sì, hai ragione. Luca, com'è la modulazione al tuo orecchio? È passabile, buona, ottima, buona, passabile, scadente o pessima? No, bella Marco, va bene. Aio Lu, riprenditi in fretta. La parola. Ci vogliono, siamo altri 20 giorni. Dolori ne hai adesso? Sta iniziando. La messo alle 8 dopo prendere l'antibiotico. Penso che stava andando anche al freddo. Sono manichette corte sotto le coperte. No. Metto il pigiama dopo. Quello è un I-12, lo devi prendere l'antibiotico. Un I-12. Non sgarrare, mi prendono sempre alla stessa ora. Poco da sgarrare c'è. 28. Lo so, ma te lo puoi dimenticare. Può succedere. Lo so. Ma che tu il naso te lo fai operare? Io? Beh, a me, guarda, mi era molto storto, più di adesso, l'avevano parzialmente raddrizzato quando mi avevano operato per quella cosa più importante. E se no era messo male. E cosa ti volevo dire? Mi chiedevano, ha dolore? E io no, sicuro? Sì, non ne ho dolore. Come me ne chiedevano un giorno dopo l'altro, ha dolore? Io no. Ma perché me lo chiedete? So per chiedere, per dire, ma dovrei averne, perché io non ho avuto alcun dolore, zero. Anzi, stranamente, perché conta che lì hanno bucato l'osso per passare nella scatola cranica, capito Gianni? Cazzarola, il tuo era un intervento delicato. Sì, ho cambiato sesso, mi hanno fatto il seno con il silicone. Vabbè, non ci pensi più, dai. Non ci pensi più. Sì, infatti, tutta la paura iniziale, per una volta che tagliano, boh, non ci pensi più. Era dal fatto che lo desideravi. Anzi, non chiamatemi Marco, chiamatemi Marta. Marca. Marcolina, con la finale. Marco a Luca, quando era piccolino, lo chiamava D'Artagnan perché c'aveva il pizzetto. Ah, un po' di pizzetto, ma da che età? Con lo sviluppo già? No, Marco, no, mio figlio, a Luca chiamava D'Artagnan perché c'aveva il pizzetto, Luca. Ah, ho capito. E a Giulio Mastro Geppetto. A tutti la gola di uno. Vediamo un po' cosa c'è qua. Ah sì, c'è roba su. Ma dove? 525, già c'è qualcuno a casa a parte noi, dico, non siamo i soli a essere a casa. Poi vabbè, la serata è finita, sai, la giornata era troppo ventosa e anche il sole era velato. Sì, era coperta, non era bella. Io volevo scendere a Platanova stamattina, mi sono organizzato il pranzo perché doveva venire mio nipote a pranzo. Adesso mi organizzo il pranzo, così poi me ne vado in giro. Invece è venuta una persona e niente, non sono potuto uscire. Tia, ma tu sei solo in questi giorni, a quanto ho capito? Sì. Come mai? Come mai? Marco, non ci sono più. Non ci sono più? Ma lei? Sì, l'ho lasciata. No. E vabbè, che poi è un casino anche a trovare ogni volta una persona fidata, tutto da capo bisogna fare, capito? Formare il rapporto di fiducia. È un macello, ecco perché io non spreco nemmeno le energie, certe volte cercare di bere una. Se mi vogliono sono là. Sono qui, cioè. Vabbè. Se la roba non va, Marco, meglio troncarla, non posso stare con una persona che qui non sto bene. Avanti, Luca. Ha spesso al telefono. Hai capretto? Te l'avevi immaginato, scommetto, vero? No, io ho detto magari sta facendo la visita a un parente, c'ha questioni burocratiche, che ne so, nel comune dove era residente, io pensavo cose così, no? O familiari o burocratiche. No. L'ho mollata. Basta così, se non mi ripongo più in casa. Vabbè, ti puoi, in compenso ti puoi divertire. Quando una vuol fare bunga bunga, la porti lì, fai quello che devi fare, poi. Grazie, arrivederci. Sotto a chi tocca. Oh, mi sono proprio scocciato adesso. Mi sono veramente deluso e scocciato, dai. Se non vanno va, inutile calcare la mano. È vero, inutile calcare la mano se non c'è coso, non c'è niente. Chi altro c'è sul 10 sopravvissuto? Avanti? Chi vuole entrare sul 10? Avanti, buonasera. Niente, tutti al mare sono, tutti, chi con lo yacht, chi con l'aereo privato, alle Canarie, non vedici uno, i poveri rimangono a Sassari. E vabbè, ci rilassiamo Marco, un modo per rilassarsi. Guarda, a me sarebbe piaciuto, naturalmente pecunia permettendolo, avendo i soldi, non tanti, il giusto, un camper. Perché ti dà un senso di libertà, puoi andare ogni giorno in un posto nuovo, ti puoi fare il giro proprio della Sardegna, costa a costa, 360 gradi, vedere ogni giorno una costa, ti puoi fare tutta la Sardegna, tutta. È una cosa incredibile, guarda. Ovviamente lo riempirei di baracchini, radio, ricevitori, antenne. Sì, perché mai dire mai, ma... Ma sai cos'è già? Cioè, queste cose te le godi quando sei giovane. E quando magari uno è anziano se le gode meno, se le gode molto molto meno. Guarda, su YouTube io guardavo questi video di questa famiglia e il nome Camperato, i tre nomadi, non camperando, camperato c'è scritto, i tre nomadi, ed è marito, moglie, che poi lì è sempre in costume, sempre in bikini, sempre mezzanuda, è grande lì, però è già è toga come tipo. E poi c'è un figlio che avrà 12 anni, allora si sono fatti tutta la Spagna, tutta l'Africa, tipo Marocco, stanno ogni giorno viaggiando a fare video da non so quanto tempo, tant'è che lui studia a casa, non potendo frequentare la scuola, studia a casa, capito? Lo fa studiare o lui o lei, non mi ricordo. Bei posti però, solo che già, in fin dei conti, gestire un camper a quei livelli quando sei proprio lontano dall'Italia è un lavoro, ci sono tante cose che possono andare storte, per esempio in Marocco non c'erano le bombole di gas, non so per quale motivo non trovavi in vendita le bombole di gas, e quindi se ti finiva la bombola, lui ne aveva una di scorta, però dice dobbiamo andarci piano perché finita questa non ne abbiamo altra, e gas dice non ne vendono in bombole, altro che cosa strana. Fu un imprevisto, che ne so, la batteria ti parte o un pneumatico si buca o peggio c'è problemi meccanici al mezzo, lì rischi a seconda dove sei di dover stare giorni o settimane fermi. Io seguivo una coppia giovane, due camperisti, tutti e due molto carini, dai, giovani, e praticamente per campare facevano marketing sul web e in più vendevano i bracciali, le collane, tutte le cose che facevano loro, tipo hippie, dai. E ci avevano un gatto che era con loro, e questo camper era vecchio, però facevano tanti filmati, facevano vedere svariati posti, Spagna, Francia, Inghilterra, sono stati numeri posti. E praticamente questa casa di camper gli ha voluto regalare un camper di quelli grandi per pubblicizzare la loro marca, diciamo, e loro facevano la pubblicità. Adesso stanno pubblicizzando anche i telefoni, li ho visti io su internet, li ho visti pubblicizzare i telefoni. Quella non me la ricordo. A meno che, ma perché se è quella che gira il mondo proprio a livello di Nord America, Sud America, quelli lì? Tutto fanno, su TikTok io li vedo, che vedevo, adesso non li vedo più da tanto, probabilmente hanno preso un'altra carriera, non lo so, perché già lavoravano bene così, gli hanno chiesto ma come fate a campare se siete sempre in giro così, e loro hanno spiegato come fanno, dice facciamo marketing sul web e in più facciamo bracciali su ordinazione, ma so quanto ne ordinano, anellini, bracciali, fatti bene, mi sono bellissimi, si impegnano molto, capito? Dentro il camper si fanno questi lavori e poi li spediscono, e niente, ci fanno i soldi così. C'è qualcuno sull'11? Forse ha sbagliato frequenza. Siamo sul 10. Ciao. Questo è Tony, Tony. Buonasera. Ciao Tony, buonasera. E come se col checco? No, ho detto così, tanto per farlo funzionare, se lo puccia lo dice. E me mercoledì. E così un'altra domenica pallosa se n'è andata. K, stavamo parlando del più dal meno delle pere del diviso e di camper con Gianni, quelli che fanno video, che si fanno il giro di tutto il mondo in camper. Oh già, sai che trucco usa questo tizio lì, questo che ti ho detto io, camperato i tre nomadi? Praticamente, come icona di ogni video, mette la moglie in bikini, no? Che per quanto sia grande, il fisichetto già ce l'ha, bikini ma proprio col perizoma micro, e praticamente in pochi giorni fa la roba di 100.000 visualizzazioni, 200.000, proprio perché attira, mettendo l'icona con la moglie in bikini, attira un po' di visualizzazioni, capito già? Certo, allora è un magnaccio questo qua. Tony, ma te lo immagini? Ma io ho visto in un filmato tantissimo tempo fa, questi due anziani avevano avuto 70-75 anni, avevano un camper che era roba di 16 metri, tutto in acciaio, enorme, c'era tutto dentro, loro giravano il mondo, quindi si erano venduto tutto, casa, terreno, eccetera, eccetera, senza figli, e loro giravano il mondo, ed erano così contenti e felici, giustamente a una certa età poi già, quando chiudi gli occhi uno cosa ne fai un camper del genere? Era nuovissimo, c'era tutto, televisori a schermo gigante, insomma non gli mancava niente, tu capirai, circa 16 metri, meli veramente. Beh, se cresci in due tu lì stai bene, poi se muori uno dei due passa tutta la fantasia. Infatti conviene uno giovane fare queste cose qua, io non lo farei mai più, cioè non lo farei oggi che oggi per l'età che ho, quindi non mi frega niente, una casa stabile è sempre una casa stabile, come persona ha detto che ti prendi un camper, no, io non mi piace, non voglio fare la vita di nomade, un nomade sta girando una parte all'altra, poi con l'età che ho, quindi no, non dico che sono un vecchio ma neanche giovane, ho la mia età e quindi niente, mi piace essere una casa stabile, tutto qua. E me, come me siete al baracchino, siete in giro, bella domenica, gà. Perché la giornata non ti invoglia a uscire, è una giornata un po' uggiosa, coperta, fosse stato come ieri, sì. Vedi, io, sì, ha messo anche bella giornata domani, dopodomani che è festa, niente, qualche nuvoletta. E quindi io mi sono vado da mio figlio in posata, mi faccio un po' di chilometri e sto un pochettino lì qualche giornata, anche ne approfitto perché di andare perché voglio far guidare anche a mia figlia, così a lei piace guidare, infatti quando sono andato io sabato scorso ho fatto guidare lì, infatti quando poi ha fatto lì c'ha fra poco l'esame della guida, capito, ha fatto di nuovo qualche altra guida con l'autoscuola, ha detto sei bravissima, dice sì, ho guidato con mio padre più di 50 km, fai bene, continua così, niente, lei è stata promossa in teoria, adesso deve fare solo la pratica, è già bravissima, l'hanno messa in lista, quindi non so se per maggio o giugno dare l'esame, ho detto meno male, così almeno non mi cerchi più di andare a fare la spesa. Meno male, non stavi filmando, tu lo sai che dopo i 60 anni non puoi fare scuola guida? Dopo 65, sì, ma io allora sono cardiopatico, ho il foglio in macchina, qua mi sono sentito poco bene, ho fatto guidare lì, non c'è foglia rossa, poi se trovo quello in gamma chiudo l'occhio. Infatti, vabbè, comunque, allora dai, era guidato bene. Cappa, se mi sono visto dormito, era piano 70-80. Vabbè, ancora non è sicura, non è che Bobbuni si aggurriavano, dopo quando prendere un po' di sicurezza lo fa anche lì sicuramente. Poi le donne sono pericolose, camminano un bel. Dipende che donne. Sì, poi quella strada lì, la 131 bis dovrebbe essere, che lì molte volte è interrotta la strada, è doppia corsia, unica. Quindi poi ci sono 5-7 gallerie lunghe, quindi corte e lunghe, No, si è trovato bene, ma la verità già va bene così. Uno per la sola per Urbia, per andare a Urbia, per andare lì. K, faccio per Urbia, prima di Urbia, giro a destra e prendo per Nuoro. È la stessa strada che io facevo per San Teodoro, M. E vuole sbagliare. Sì, poi c'è coso, l'altro paese, non mi ricordo, non me lo ricordo più. Budoni, da Budoni poi c'è Posada. Quindi rimane dopo San Teodoro. Ma molto più avanti già. Già ne facevo 150 io di chilometri, 150 andare e 150 tornare. Che poi Budoni ci sono due o tre entrate, non è un'entrata solo, quindi è molto molto... Da lì, diciamo, da San Teodoro saranno altre 20-25 chilometri, non mi ricordo con esattezza. E ti farà una passeggiata. Dai, avanti Marcolini. Furia, pensa che non vado nemmeno più Alghero, guidando io. Proprio non mi piace più guidare, poi di notte non ne parliamo, di notte quando praticamente sei fuori città che non c'è illuminazione, no? Che è tutto buio e vedi i fari delle macchine con questi LED bianchissimi, mi dà un fastidio, guarda che prima non erano così, prima i fari erano più giallini, con le luci della lampadina incandescenza, ma questa roba ti cava gli occhi, anche se sono anabaglianti, danno un fastidio terribile a me, poi non so agli altri. E già sono furti, Oh, sto usando la macchina normale, com'è? 1, 2, 3, bla bla bla bla bla. Va bene, tu lì. Quelli sono Xeno, sono un bei furti quei fari. Io, sì, vabbè, c'erano lo Xeno, ma adesso ci sono queste LED, consumano meno, ma luce ultra bianchissima. Per carità, guarda, vabbè. Uno cosa può fare? Certo non si può mettere gli occhiali da sole di notte, no? Oh, ci sono gli occhiali per guidare di notte, Marco. Ti correggo, qua io li ho avuti. Quando mi davano fastidio le luci, mettevo questi occhiali. Perché vedevo la luce con la croce, quando avevo la cataratta mi dava fastidio. Sembrava una croce la luce e mi abbagliava. Ma stai dicendo gli occhiali con le lenti gialle? No, no, le lenti sono normali, quelle che avevo erano normali, però non ti facevano vedere le luci abbaglianti, capito? Non so che tipo di occhiale possa essere, polarizzato, che ne so, fotocromatico, no, ma quello è, funziona con la luce del sole forte, diciamo. Va bene, Luca, vediamo se è rientrato, se se la sente di parlare. Sono occhiali per la guida notturna, Marco. Perché Luca è uscito dall'ospedale già? L'hanno mandato via oggi. Io in realtà ci siamo messaggiati, l'ho fatto messaggio, ma non mi aveva risposto. Che l'avevo detto se ero uscito all'ospedale. Perché servivano 9 posti liberi e gli hanno detto se non punti io ci va via. Mi ha mandato una foto, ma sbarbato, col naso con tutto il tampone, mi bagno il bizzino. La barba già cresce, tu l'interessante si rimetta subito lui. Quello senza prendere dubbio, la prima cosa è quella. Però vedi quanto rigiovanisce senza barba. Sì, è molto più ragazzino sembra. Però non le sta bene a Luca. A me mi piaceva quando se la faceva fino a fine la barba. C'aveva il pizzetto con la barba fina, era bella curata, bella... mi piaceva così. Fatela crescere anche tu. Ma la moschina intende Gianni? No, a me... no, scusa Marco, no, a me non mi sta bene Tony, non mi sta bene la barba, sembro sporco quando mi faccio crescere la barba, mi dà l'impressione di essere sporco. C'aveva il pizzetto proprio, tutto il pizzetto, e poi continuava sino alla basetta, però fino alla barba, capito? Tipo una traccia. Sì, sì, ho capito. Eia. Va bene. Poi mi è passata la fantasia, guarda, non c'ho più voglia di andare da nessuna parte. Poi con l'arrivo del caldo io quest'estate creperò, finalmente, speriamo. Fa finita, sei poco tragico. È bello l'estate. Allora, l'estate io soffro terribilmente, guarda, proprio mi toglie il respiro il caldo dell'estate, poi fanno estati sempre più calde, cioè quando ero piccolo, molto piccolo, mi ricordo estati, ma più miti, erano più miti, ma adesso sembra di essere in un altro forno quando esci, per carità, guarda. Che ora è? Oh, l'ora del caffettino, signori, dai, io stacco un attimino, se posso rientro dopo. Riprendi Gianni. L'ora del caffettino, che sciura. Ciao Marco, ciao, va bene, dai, siamo qua. Torino, riprendi, dai. Cappa, buon caffettino. Guarda che Marcolino è che ha aperto per tutte le ore. Ormai lo sappiamo, siamo abituati. Comunque Rex, punto di caffè in alto. Piuttosto Tony, guarda, sto utilizzando il CRT 7009 e l'MB più 5 da tavolo. E poi l'eco è appena appena di eco del baracchino. Com'è, malvagia? È ottima, mi piace anche quel BP finale. Va bene, signori, a dopo. Ciao ciao. A dopo. Ci sei Luca? Se deve essere assopito perché non stava tanto bene. Io comunque riesco a diminuire anche l'eco, mi già. Adesso voglio fare una prova. Allora, questo è l'eco. Adesso sto diminuendo. Ho diminuito. Ecco. Così? Non mi ascolti così. Ma come lo diminuisci, scusa? Sul Galaxy? Cappa, ma io lo so che sono più uguale. E allora questo non è diminuire l'eco. Questo è vaffanghecco. Questo qui è la totale. Come fa a diminuirlo sul Galaxy? Almeno che c'abbia un potenziometro dietro che te lo fa diminuire. E capa, c'è un potenziometro, infatti l'ho messo dietro, ma non ho capito cosa serve. Mi sento in cuffia e poi diminuisce la voce che sento in cuffia con le cuffie. Quindi vaffanculo, non ci capisco più la cuffia. E allora è sbagliato, prova a rifarlo Tony, però non mi è sembrato che si abbassasse. Allora, adesso metto a zero. Ecco, io non mi sento più così. Tu con lei come senti? Io. E allora questo non si sa cos'è, aspetta. Nelle cuffie però non mi sento, vedi? Adesso aumento. Sì, questo mi sento. E allora è un potenziometro. Praticamente avevo fatto una deviata tra le cuffie e vaffanculo, che mi sento le cuffie quando parlo con il microfono baracchino, capito? Lo sento la voce mia chiara chiara. Perché vabbè, la voce la sento anche io, se mi metto le cuffie la sento chiara la voce mia, capito? La sento anche io, basta che attacchi un altro apparecchio. Allora, se io metto il microfono più amplificato senza cuffie, ovviamente innesca perché trovo vicino l'altro parlante, con quel sistema io metto a zero e non innesca più, ecco perché l'hanno fatto. Ah ecco, ho capito, deve essere tipo un parlascolta, dai, tipo come fa il parlascolta quando è troppo alto che innesca, poi lo abbassi e non innesca più, e vabbè. Ma mi ha detto che mettevi quel microfono oggi, messo là. Non l'ho messo già, non la giocata, poi mi manca lo stagno, quello già con la pastetta, io c'ho quello stagno. E dato un pezzo a Franco, mi ha detto, no Torino, non ce l'hai la pasta incorporata, e c'è tutta pallina e allora niente, lo devo prendere. A palline, io ho la pasta salda, lo metto la pasta salda e saldo, come ho fatto un piede da poco. Ehi vabbè, io purtroppo ho questo qui. Ed è, l'avevo preso da Bricco, ma è una matta me ne scenda fino fino bello, mi è piaciuto, però che c'è la parte incorporata invece no, vabbè. Lo stagno, vabbè, io uso sempre quello normale, quello fino, normale, lo bagno la pasta saldo e poi saldo, fate un fiago nido, lo so. Perché insomma c'è un bel rotolino io nuovo per non buttarlo perché mi dispiace, ma allora cosa faccio, mi compro un rotolino di stagno di grasso e buonanotte e con la pasta almeno la uso con quello stagno fino a quando non finisco tutto il rotolo perché ce n'è un bel cavolo grasso. Ho detto grasso, mi sono uscito per la pasta, dai. Eia. Chissà col grasso che odore fa, cazzo, mamma mia, già le fasi così di viago. Sì, a me basta che non ne metti molta di pasta salda, perché sennò si rovina la saldatura, si fa tutta marron. Non devi mettere appena appena, salda bene, e fa la saldatura proprio lucida lucida. Ehi, cappa, che possibilità di grasso, penso che sia la stessa cosa a me, perché quella parte è grassa poi. Niente, quindi vengono già lo stagno con la parte incorporata, però ripeto, ormai non possono apparecchiare il polino muro, mi si piace fino fino. E tu comprati uno e l'altro, compri la pasta salda e un rotolo di quello stagno lì che dici tu, con la pasta incorporata. Così almeno ce l'hai tutti e due, li utilizzi tutti e due, quando finisci uno ce l'hai. No, ho detto che compro soltanto la pasta e boom. E utilizzo questa senza pasta che non volevo il rotolo con la pasta. Quando finisco questa qua, allora la compro con la pasta incorporata. Questo stadio lo devo finire. Vabbè, sì, beh, ha visto un re che può avere anche il cavallo. Se lo sapevo, te vieni via a casa, te lo faccio via a casa, non c'era problema. Sì, vabbè, mai. Penso che non sto accendendo più niente, neanche l'altro. Niente, per i Galaxy, sono fissato con i Galaxy io. Visto, anche a me. Io lo stesso, ne ho 2, 3, 4, 5, e uso sempre il Galaxy, sempre, perché mi piace questo. Ma tutto. Si controlli le stazioni aria, niente, diciamo il segnale più selettivo, dai, c'è tutto. È diverso, dai, non è che a paragone. Sì, il segnale te lo dà giusto, è l'unico apparecchio che c'ha segnale giusto, gli altri comprati nuovi, tipo 3009, sono troppo avari, dice, due segnali in meno ti danno, però l'ho appurato perché ho provato con uno e con l'altro e ti dà due segnali in meno. Stamattina ero in ascolto, la prendo in casa, ho sentito la talina addirittura, è cazzato nero che gli funzionava male Superstar, cos'era? Non mi ricordo. Io non usciva di radio. È successo ieri quando stavamo parlando, già lo so, sì. Di Fischia ha messo l'MV più 4, poi l'ha tolto, ha messo l'altro, fischiava, non usciva di radio, se usciva basso, tipo radio 1 così, e non lo faceva uscire, fischiava, tutto fischiare. E ha detto, prova a aprire il coperchio, guarda che magari è entrato un po' di polvere nel cursore del Mikey Gay, nel potenziometro, oppure può essere anche qualche filo dall'interno che tocca e non tocca, come è infilato il microfono, magari è spostato quelle, hai visto quei piedini che ci sono dove saldi, quindi se si sposta le tocca, non vale la pena ti butto. Non so, comunque sono apparati che non lo so, io col Galaxy mi trovo troppo bene, non ce n'è per me. Gli altri sono belli, sì, sofisticati, quello che vuoi. Io ho sempre quello nero, così, perché c'ho di canali, quello 10 metri, anche se ho Natalino una volta. Ma è tutto tanto un casino, entrare nel menu, fare quello. No. Ho il tempo l'accendo e poi lo spengo di nuovo. E già, più canali delle Galaxy. Meno vendo e se ne abbia luci. A chi piace, a me non piace. Sony, ma il menu lo tocchi una volta e poi non lo devi più toccare, una volta che è regolato. Non sei uscito in finale. Perché mi è scappato il tasto del microfono. Ho detto, che cosa ho tu che a fare il menu? Lo utilizzi una volta solo per regolarlo tutto quanto e poi non lo tocchi più. Ma se riuscite pure il gabbo che fa con la voglia, per carità, è troppo casino. No, è troppo complicato, invece con Galaxy V, A, B, C, D, ta, è diverso. C'è il frequentino, i tre canali, lì è tutto un casino. Poi, Sminter qua non ce l'è come ce l'hai nel Galaxy. È tutto digitale, e a me i trigosi usi non mi piace più. Invece il mio ce l'aveva sia digitale che quello che ti ho dato, quel Cobra era bello, tu l'hai dato. Vabbè. Aveva una manopola e sembrava un HF. Vabbè. Quindi. Che vuoi che dica? Già. Ma in compenso ho fatto uno scambio col Cobra. Ho preso una cosa veramente bella. KK. Vabbè. E comunque giriamo, rigiriamo, e poi magari torniamo sempre a quello che ci piace, capito? Guarda, dico pure cosa ho fatto lo scambio. Io ho un impianto stereo Aiva MP3 con due casse fenomenali, potente, digitale, bello. Cappa. È sempre roba di radio acustica, vabbè, se c'è la passione, vabbè, io a casa di radio ne ho a gogo, da tutte le parti posso ascoltare il radio, posso mettere musica, ne ho in cameretta, ce l'ho in cucina, l'impianto, ce l'ho in sala, grazie di voi. E poi c'ho il ricevitore, quando vado a farmi la doccia me lo accendo in bagno e mi ascolto la musica. Vabbè, io ho il radione antico, bello, che l'ho messo, ho fatto la, il mio letto si alza che è sotto questi dei cuscini, materassi, eccetera, che sono cose a cavolo metti. Io ci ho messo la roba che mi serve, che non uso, e io ho messo anche il radione. Cioè, Alexa, metto musica e metto la musica, ma la domenica, bello, d'estate, metto questo, senti in massa proprio boom, boom, boom, insomma, musica bella, forte, capito? Questo non lo stai, però, di quei grossi potenti, è quello che mi piace, e boom. Gli altri sì, c'ho radio, quello che vuoi, però non ha mai la potenza come questo stereo, è una cosa diversa, e l'ho messo sopra il terminale, che ho fatto io sono i baracchini. Ma che cos'è? Un cubo, No, sono tre pizze separati, due colonnine e due al centro, è un AIVA MP3. Ah, solo MP3 c'ha, oppure legge anche CD, eccetera. Allora, legge CD, c'ha tre CD, puoi mettere contemporaneamente. Radio AM/FM e poi questo così, anche Magia Cassette. Ah, e vabbè, di quelli impianti di una volta, insomma. Io ne ho 5 di CD, tutti in una volta li puoi mettere, c'ho il piatto, però quello lì capo esce con un 1000 watt, fa vibrare tutto quando l'attacchi, devi mettere a volume basso, se ti vibrano i bicchieri della cristalliera. E questo, le casse hanno tre vie. Il woofer, Twitter, l'altro non ricordo come il cavo si chiama, c'è scritto fatto tre vie, speaker system, ma è bello perché poi le mofe sono giganti, bello, una bella posizione. E niente, ci ho guadagnato, dato che va a comprarlo, minimo, solo pagherai 1,50 euro. Vabbè, boh. Adesso fanno altri tipi di impianti, capito? Ci sono quelle casse Mose, quelle piccoline, se senti come suonano, ce l'ha Antonio Bombo, suonano quelle casse, rimani a bocca aperta. E io ho anche tutto l'impianto per mettere la televisione, te lo dirò, è sempre sotto il letto, insieme a tal cosa. Cosa ne posso di colonnine, mi dirò. Io ho il televisore, sempre meglio diciamo metterlo, con il televisore sotto pollici, però no, non a giocare. Poi, ripeto, se trovo una casa, come dico io, minimo due camere fucile magiche col giardinetto, io ci me ne vado da qua. Però deve essere come dico io, perché tutta la roba praticamente lo metto nella seconda camera, capito? Una camera da mettere, l'altra soltanto attrezzatura, tutto. E la metterò anche la stazione, eccetera, eccetera. Mentre invece, perché io qua ho quella casetta che l'ho preso in metallo, per 140 euro, ho fatto in base a mettere il cemento, insomma, ho messo tutta l'attrezzatura, ma non basta. Ci vorrebbe ancora più grande, ci vuole una camera, con tanto di scaffali, mettere tutta l'attrezzatura come si deve. Io ho scaffalatura, cioè ho l'attrezzatura addirittura è scatolata ancora, ho una pulipapa che non ho mai usato, ho una saldatrice nuova di Zecca, mi l'ha usata Franco da poco, ho detto me la veramente nuova piccolina, ma c'è tutto con la tipo valigetta piccolina, e ho di roba ancora, c'ho la toccatrice, due volte l'ho usata, c'ho la circolare da banco ancora scatolata. Allora, la mia che c'avevo prima, siccome sono stato a abitare a Moreamare, ne avevo venduta perché là non potevo usarla. Niente, poi quando sono ritornato qui, quando l'ho vista di nuovo, me la sono ricomprata. Quindi c'è un casino di attrezzatura. Ma cosa stai a comprarla tu dici, poi per lasciarla ferma? Devi avere i posti per metterci la roba. A te avrebbe bene un bel garage dove ti puoi fare lavori, eccetera, eccetera. Un garage a parte. Fatti tutti i tipi di lavoro che vuoi fare, c'è l'attrezzatura, non ci vuole nulla a fare i lavori quando c'è l'attrezzatura, se c'è manualità li fai i lavoretti. E vabbè, tu stai continuando a accumulare, ti sta venendo la sindrome da shopping. Tanto è vero, quando mio figlio aspetta, secondo me quando tuo padre non ce la fa più ti mise tutta la roba e se la bucci. Allora marito, e a chi manco usò per chiamare un tiro, ma per chiamare la roba.